folle garrir dubbio non renda vostro pensier. I tener pur al solio che dell'antico inganno io dal mio ne farò pubblica fede. Più di quello il tuo amor, sposa me grato, mi lendo e mi perdono, io seguo il fato. Popoli, quel rossor che in me vedete sia testimonia de chi voi ben scorgo di stupor l'alma ingombra, eppure nuovo non dessembrarvi che quel trono prema rete vim e marito. A lui che nacque non di damira già, ma di rustena è dovuto. Colleda ambitiosa, brava la vita, in quel fatale giorno, o giorno, o cambio, o riamemoria, o inganno. Sì, l'audito e l'inganno empio ed indegno di sovrano, di padre e di marito. Vassalli, a cui ben note son le sue debolezze e torti miei, cico amor le voci non udite, moglie soffrirsi già sue gravi affese, ma soffrirli non posso afflitta madre. Incauta ove trascorri, tu per il figlio amar tradisci il figlio. Melindo è figlio mio, che a lui si è tolto e scettro e madre e sposa, e solo il caso del tuo ruigno mi dia da soffrire è troppo. Prospero fine dei disegni attendo, le vicende crudeli io non intendo. Rustena giura ancor che in error sei, ma salverni e di fede ubbidienza presta al comando e mio. Legge tiranna ubbidienza perde, e diritto non esse trasgredito, ma tu sei quella pur cui più di regno amor di figlio vali, e non desia perderlo per un trono ed orsicchito. Taciturna e miri riprovero opportuno. Io che pace ricerco, io trovo inciampo. Alla miseria mia non vedo scampo. Rustena, oltre il dover t'avanzi mai? Non più, signor. A tanti favor tuoi quest'angor crescerà grata memoria. Me, tua compagna, e te la muoio al soglio di valesti. Invidio mi aver soffato il sommo piacer, però non resta che per me beneficio non sono di. Ma che di quanto ignora generose finezze ver me per il mio sangue prodigo tu non fosti. In noi risplende tua grandezza e bontà più che in altrui. Dite il pegno maggior or darmi vuoi, e rimettendo il mio zelim sul trono, delle perdite nostre il danno pareggiar, ma fiero ancora il mio primo destino me lo contende. Pure te ne ringrazio, il favor tuo non vuoca tanto costarmi di nome. Resti a me, figlio mio, a mie sciagure supplirai del tuo amor le vive prove. Ingannatrice accorta, con qual nube insidiosa oscurar tenti il velo. Che fiamma è ciò? Di me che creder tengo? No, no, non più! Io di buon cuor rinunzio a quel favore che d'impartirmi bravi. O accortezza, o stupor, o audacia estrema. Stupisci del tuo error, pensa. pensaci e trema. M'era ben dolce averre niente il figlio, ma tanto prezzo suo regnar non merco. Più crudel il padre tuo che il trono mi rapì, tu per lusinga d'acquistarlo non tormi il sol conforto che mi resta d'un figlio e quel tu sei. Vedo, io sono fra due sposi, io sono ingannato e confuso, e pertinace ancora sei nell'errore. Questa insensata e vil mia sofferenza ti scuoto a mai. Ed ogni tuoi vorrei, far uso ma non posso. Io temo poco a tua salvezza, il tuo reale impegno. Ma di difenderlo può gli stessi dei. Senti, mio dolce figlio, ascendi e vieni sul mio cuore a regnar. Un adorante madre ten prega, e quando non curi a prieghi, scendi, io te il comando. Madre, madre, non più! A furie più crudeli degli stessi rimorsi miei, così superbe l'una pertinace ingannata, ingannatrice accorta all'altra, ed ambe temerarie a verità real. Una in più inganno fornete, Dio che di cambaia vostro malgrado, avrà l'impero.